pensaria, rattocca in me il vigor. Mostro, mostro, ove sei? Ti sfido, esci, paventi, uscir mi affronta. A te la vita lascio, né dell'orrido teschior mar pretendo, né dell'irsute cuoia i miei trionfi. Acque mattina, o questo orribil speco di tico vile io struggerò e rapina farò di lor. Sei prigionier d'Alcina. Prigioniero, chi parla? Qual fianco in brando, nell'insano tuo dir, sgommenta Orlando. Uscir non scorgo, sassi orgogliosi intendo il muto favennar del vostro orrore. Son tradito il vecchio, il suo mal destino non cede. Alla scossa del mio braccio possente, un marmo già divelto. In certa luce, nella cupa spelonca ora traduce. Ingratissima angelica, il mio cuore presa nella maggior d'astegni suoi, giusto furor traspira. Uscirò infine, ed il tuo nuovo amor calpesterò tutto dispetto ed ira. All'estrema mia fossa a tuo sasso giacere, aperto il passo, esce da tua prigione al cielo, portando dell'infame tuo regno a fare scempio crudele.